Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La legge di stabilità è un già visto, un déjà vu, è un revival delle nostre ricette, condito con un po' di populismo, presentato con grande, grande abilità. A parlare Silvio Berlusconi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avete sentito a TG5, lo fa per criticare questa legge di stabilità, dice un po' ci ha scopiazzato Renzi, almeno dal punto di vista di Berlusconi, quindi ogni tanto diciamo che questo patto del Nazareno può scricchiolare. Ci sono stati malcontenti già ieri quando Renzi nella direzione nazionale del PD ha annunciato che il premio nella legge elettorale nell'Italia, comunque ancora lì diciamo ancorato alla Camera, ancora non è passato al Senato, non si sa, questa legge doveva essere approvata, la riforma elettorale in breve, invece ancora lì. Bene, ieri Renzi ha detto che il premio di maggioranza non sarà più nelle elezioni alla coalizione, ma al partito che avrà avuto più voti. Questa cosa non è andata molto giù a Forza Italia, però ancora la linea non è ben definita. Poi sapete che qui continuano a cambiare le cose, finché si farà questa riforma potrebbero cambiarne molte altre. Questo tanto come incipit, ma sono moltissime le cose di cui vi parlerò stasera, vi racconterò come sempre, come tutte le sere, la giornata in sintesi. Poi vari argomenti da approfondire, tra cui la sentenza di condanna di Pistorius, l'ex campione paralimpico, con una persona che l'ha conosciuto molto da vicino, che ci saprà dire che personaggio è, anche se diciamo quello che ha commesso già lo qualifica. Poi parleremo anche di questa cosa all'interno della legge di stabilità, che prevede il rinvio del pagamento delle pensioni anziché il primo giorno del mese al 10 del mese, che ha fatto subito inferocire i sindacati. Qualcuno non ha capito bene per quale motivo questo rinvio, pare che ci sia una giustificazione su questioni di risparmi. Capiremo anche questo, molte altre cose, anche una sorpresa, una piccola grande sorpresa soprattutto per i milanesi, ma non solo. Cominciamo dalla giornata. Legge di stabilità arriva al Quirinale in attesa della bollinatura della ragioneria, ma fa discutere lo slittamento delle pensioni dal 1 al 10 del mese. Giustizia, tensioni sulla responsabilità civile dei giudici, ammorbidito il disegno di legge, Forza Italia e Lega tentano il blitz in aula, ma la maggioranza regge. Ebola in Spagna, è guarita definitivamente l'infermiera di 44 anni, prima contagiata di Ebola fuori dalle frontiere africane. Sudafrica, Pistorius condannato a 5 anni per l'uccisione di Riva in cella per omicidio colposo, ma tra 10 mesi potrebbe essere domiciliari. L'alluvione di Genova, rabbia nelle strade della città con la manifestazione Ora Basta, uova e monetine contro la sede del comune, tributi sospesi fino al 20 dicembre. Francia, schianto all'aeroporto di Mosca, muore l'amministratore delegato della Total, l'aereo contro uno spazzaneve, shock nel paese, accuse di negligenza. È morta l'attrice Lilli Carati, stata un'icona sexy degli anni 70, aveva 58 anni, si è spento a 82 anni, Oscar della Renta, lo stilista delle dive di Hollywood. Calcio per la Champions, la Roma sfida il Bayern, partita sold out con un incasso record di 3 milioni di euro. E partiamo quindi dalla legge di stabilità. La manovra è all'esame del Quirinale, è terminato nel tardo pomeriggio l'incontro tra Renzi e Napolitano, restano preoccupate ancora adesso le regioni, mentre spunta anche, vi dicevo, questo slittamento del pagamento delle pensioni. È un esame attento quello che il Quirinale assicura sulla legge di stabilità. Il Colle ha ricevuto oggi il testo della manovra con un giorno di ritardo rispetto al previsto e senza la bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato, segno delle difficoltà incontrate dal governo nella stesura del provvedimento, che in questi giorni è anche al vaglio dell'Unione Europea. A protestare contro la legge di stabilità nel frattempo oggi sono anche i sindacati dei pensionati, che contestano il posticipo del pagamento delle pensioni al 10 di ogni mese, una misura che definiscono un vero e proprio accanimento nei confronti degli anziani. Il governo intanto ha convocato per giovedì i rappresentanti di regioni e comuni, che restano sul piede di guerra per i tagli previsti dalla manovra. Non siamo parassiti, commenta polemico oggi il presidente dell'ANCI Fassino. Quando spendiamo? Spendiamo per asili nido, assistenza domiciliare agli anziani, trasporto pubblico locale, tutela ambientale, promozione culturale, sostegno alle fasce di disabilità o di fragilità. Si faccia i conti finalmente sul fatto che i sindaci si occupano di questo. Rappresentarli come un centro di spesa inefficiente e parassitaria è un'operazione intellettualmente disonesta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi vi dicevo, a proposito di legge di stabilità, cercheremo di capire quali motivazioni ci sono dietro questa norma non ancora definitiva relativa al rinvio del pagamento delle pensioni dal primo del mese al 10 del mese. Ieri la direzione del PD, ne abbiamo parlato molto qui, con la minoranza, in particolare Cuperlo, che ha lanciato diverse accuse a Renzi, tra cui quella di voler costruire un partito parallelo con l'ormai nota e consueta convention della Leopolda, quella che aveva consacrato l'astro nascente di Renzi e che si terrà anche in questo fine settimana. Sabato è in programma pure la manifestazione della CGIL. Un weekend all'insegna della sfida tra CGIL e governo, ma questa volta l'esecutivo non è di centrodestra. Susanna Camusso lancia un appello a tutti gli iscritti al sindacato storico della sinistra ed è quello di partecipare alla manifestazione del 25 ottobre a Roma. Il vostro coraggio è importante per il segretario della CGIL. Il Partito Nazionale di Renzi ha echi che non vanno bene, la ricetta del governo è sbagliata, i tagli alla scuola non sono di sinistra e Camusso aggiunge: non vado alla Leopolda e non siamo i poteri forti. Intanto il premier Matteo Renzi sale al Quirinale in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. Difficile però non parlare di legge di stabilità all'esame dell'Unione europea, ma anche del Quirinale. Oltre alla CGIL, Renzi deve poi affrontare la minoranza PD, decisa a non partecipare alla Leopolda, ma che invece conferma in parte la presenza alla manifestazione della CGIL di Piazza San Giovanni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E un altro fronte caldo, sempre caldo, quello della giustizia, con dissensi nella maggioranza sulla responsabilità civile delle toghe, non sarebbe escluso un nuovo ricorso alla fiducia. Diminuiscono i casi, aumentano i risarcimenti. Il governo rimette mano alla responsabilità civile dei magistrati e subito è di nuovo scontro col relatore che minaccia di lasciare e Forza Italia che grida al passo indietro. Tutto sotto la minaccia di multe dell'Europa. Con 3 emendamenti in Commissione Giustizia al Senato, l'esecutivo limita i casi in cui lo Stato ha l'obbligo di rivalersi direttamente sulle toghe responsabili di errori, ma innalza la quota di stipendio che gli stessi magistrati sarebbero chiamati a pagare, non più un quinto ma un terzo. In questa nuova versione le toghe non sarebbero più sanzionabili nel caso in cui si distaccassero da pronunce delle sezioni unite della Cassazione e cadrebbero pure i casi di violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, una modifica che porta il relatore della legge Enrico Buemi PSI a non escludere le dimissioni. Vorrei evitare un confronto così duro nei confronti del ministro, però se noi introduciamo soltanto dell'acqua fresca è evidente che non svolgiamo al nostro compito di riforma. Il governo autorizza le toghe a fare tutto ciò che vogliono, tuona Malan da Forza Italia. Saremo aperti ma fermi sulla nostra linea, replica il guardasigilli. In 24 anni solo 4 magistrati sono stati condannati in via definitiva per errori, 0 invece le rivalse dello Stato. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Oggi è arrivata l'attesa sentenza su Pistorius, 5 anni per omicidio colposo. Oscar Pistorius non è più un uomo libero. Dopo 7 lunghi mesi di processo è arrivata la condanna a 5 anni di carcere per l'omicidio colposo della fidanzata Riva Steenkamp, uccisa il 14 febbraio 2013. Il giudice Masipa, che il mese scorso aveva graziato il campione paralimpico dall'accusa di omicidio premeditato, questa volta non ha lasciato scampo all'ex atleta sudafricano, considerando la sua decisione di sparare 4 colpi un aggravante. Pistorius sconterà almeno i primi 10 mesi della sua pena presso una cella singola del carcere di massima sicurezza di Pretoria e potrà ricevere visite dei suoi parenti e amici solo il sabato e la domenica. Al termine di questo periodo sono alte le possibilità che il campione paralimpico, in caso di buona condotta, termini la sua condanna agli arresti domiciliari. Una sentenza che ha comunque sollevato i genitori della vittima, che avevano definito errata la condanna al semplice omicidio colposo, anche se per l'ennesima volta hanno ripetuto che nessuna sentenza gli ridarà indietro Riva. Il verdetto è stato accettato anche dallo zio di Pistorius. A sorpresa, né la difesa né l'accusa hanno deciso di appellare la sentenza, anche se avranno 14 giorni di tempo per farlo. E dati i numerosi colpi di scena in 7 mesi di processo, tutto può succedere. Lorenzo Simoncelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pretoria. Poi ne parliamo, come vi ho detto, con una persona che lo ha molto seguito e che lo ha conosciuto molto da vicino. Però adesso pare ci siano colpi di scena in Roma-Bayern, pare che ci sia una debacle della Roma. Non possiamo rimanere insensibili, per questo ci colleghiamo con Dario Ricci. solidario. Sì, hai ragione Roberta, sembra di rivedere Brasile e Germania alla semifinale degli ultimi campionati del mondo e purtroppo per i tifosi giallorossi nei panni del Brasile c'è la Roma. 26esimo di gioco all'Olimpico, 3-0 per il Bayern Monaco, subito in vantaggio all'ottavo con uno splendido sinistro a giro di Robben, poi al decimo Gervinho è andato vicino al pareggio, si è superato Neuer deviando il pallone in calcio d'angolo, ma al 24esimo il 2-0 per i bavaresi con Mario Götze, l'uomo che decise il mondiale, un bel destro dal limite, al 26esimo il 3-0 per il Bayern con un colpo di testa del centravanti polacco Robert Lewandowski. Roma intontita dalla furia dei bavaresi, vedremo se gli uomini di Rudi Garcia riusciranno a imbastire una reazione, intanto però ancora il Bayern che prova a affacciarsi dalle parti di De Santis, il tiro dal limite De Santis questa volta blocca. 27esimo di gioco all'Olimpico, Roma 0 Bayern Monaco 3. Però grazie Dario Ricci, adesso una buona notizia che riguarda l'Ebola. Teresa Romero, l'infermiera ausiliare di 44 anni, fu la prima contagiata di Ebola fuori dalle frontiere africane, ha superato definitivamente la malattia dopo che anche il secondo test al quale è stata sottoposta ha dato risultato negativo, e quanto hanno annunciato oggi ai media fonti sanitarie dell'ospedale Carlo III dove era ricoverata. Di nuovo sulle notizie italiane, i sindacati sono spaccati sul seguito della trattativa con Meridiana, con il rischio che domani l'azienda apra una nuova procedura di mobilità, dopo che la compagnia sarda al tavolo del Ministero del Lavoro ha confermato i 1.366 esuberi su 2.200 dipendenti. Una parte dei sindacati ha posto alcune condizioni per affrontare la trattativa: una compagnia unica Air Italy Meridiana, piano industriale di crescita e applicazione del contratto nazionale del trasporto aereo. La Wiltrasporti invece chiede di continuare questa trattativa. E ancora questione di occupazione, è stato confermato il licenziamento dei 182 componenti dell'orchestra e del coro dell'Opera di Roma. Gli artisti hanno comunque assicurato la presenza alla prima del Rigoletto questa sera. In Salotto ha intervistato Alberto Manzini, responsabile generale Lazio FLC CGL. Stasera la prima si svolgerà regolarmente, non ci sono iniziative previste di alcun tipo. Poi giovedì sera la CGL, in preparazione della manifestazione del 25, farà un'attività di, chiamiamola, di volantinaggio attraverso la distribuzione di cartoline a chi andrà al red carpet all'iniziativa sul cinema. Lo faremo certamente parlando delle vicende del Teatro dell'Opera di Roma, ma con un occhio finalizzato alla partecipazione, che è quello che si sta discutendo e attuando all'interno di questo teatro, sta esattamente in un disegno nazionale laddove i posti di lavoro più sono precari e meglio è. E in tema di proteste sono pesanti quelle che sono svolte a Genova dopo l'alluvione, e anche monetine e uova sono state lanciate contro il comune. Nel tardo pomeriggio il ministro dell'economia ha firmato il decreto che prevede la sospensione del pagamento dei tributi dal 10 ottobre fino al 20 dicembre per i contribuenti residenti nei comuni interessati dalla recente alluvione della Liguria, tra cui Genova. E poi si parla di una maxi evasione con fatture false, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza una truffa da 1,7 miliardi perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza, indagati 60 persone indagate in tutta Italia. E adesso due scomparse. Si è spento a 82 anni lo stilista dominicano Oscar La Renta, diventato famoso per aver vestito Jackie Kennedy e poi altre mogli di presidenti e star di Hollywood, su anche il vestito da sposa per la moglie di Clooney. Ed è morta a 58 anni l'attrice Lilli Carati, attrice simbolo della commedia sexy degli anni 70, era malata da tempo. Tra i suoi film Avere 20 anni di Fernando Di Leo e Il corpo della ragazza con Enrico Maria Salerno. Gravi problemi di tossicodipendenza l'avevano portata a un prematuro ritiro dalle scene. Domani ci saranno i funerali a Indunolona, che è la città dove vicino Varese, dove è nata l'attrice. Sentiamo allora Giuseppe Sanson, esperto di B-movie italiani, al microfono di Nicola Scivola. Quelle inquadrature in cui uno dei ricordi erotici dell'infanzia nel corpo della ragazza, sia nel non visibile, uno dei più grossi sussulti erotici della mia infanzia, anche se non vedi nulla. Lilli Carati rappresenta una figura prorompente di bellezza e di erotismo che non subiva delle... era vero, aveva qualcosa di ancestrale, di italico profondamente sentito, e che riusciva a rimanere pieno di grazia anche quando ha avuto questa caduta agli inferi personale legata alla sua dipendenza, come lei ha più volte confessato. E a questo punto chiuderei questo primo quarto d'ora, se non fosse che è successo qualcos'altro nella partita Roma-Bayern, è vero Dario? Una quarta cosa è successa? Sì, sì, quaterna del Bayern Monaco, incredibile. Beh, dicevamo di Germania-Brasile, siamo anche, diciamo che il passo è quello, perché dopo mezz'ora Bayern Monaco 4 Roma 0 all'Olimpico, doppietta di Arjen Robben che ha siglato anche la quarta rete sempre col suo magico sinistro, una Roma che deve ancora scendere in campo, Roberta. Già, ma aspettiamo di vedere quando scende in campo. Intanto noi ci fermiamo per aggiornare invece chi sta andando, chi viaggia, e poi ci troviamo qui tra pochissimo, un sacco di cose da raccontarvi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo qui, stavo guardando anche i vostri messaggi, vi ricordo, tutte le sere, ve lo ricordo perché magari ci sono sempre nuovi ascoltatori e ascoltatrici, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, se volete aderire con entusiasmo, anche se volete semplicemente scrivere le vostre opinioni, e poi ci sono gli sms al 349-238-6666 per esprimere riflessioni, opinioni, commenti su quello che succede nella giornata, quello che vi racconto la sera. E per esempio, a proposito di della legge di stabilità e della cosa di cui parleremo tra pochissimo, delle pensioni rinviate al 10 del mese, Salvatore scrive: un'ingiustizia che non va bene, danneggia molto i pensionati, specialmente chi percepisce meno di 1000 euro mensili. E poi ci sono anche dei messaggi su Pistorius, che è stato condannato oggi. Stefano dice: fra 10 mesi è fuori con la libertà vigilata. Ma adesso vi riassumo brevemente la giornata e poi andiamo al primo argomento. La manovra, la legge di stabilità è arrivata al Quirinale, l'esame sarà attento, fa sapere Napolitano, Renzi lo ha incontrato oggi, domani ci sarà il visto della ragioneria. E poi le pensioni, lo dicevo, il 10 del mese, allarme dei sindacati sui pagamenti, una norma inaccettabile per associazioni e consumatori. Il governo cambia sulla responsabilità dei giudici, Forza Italia si infuria, scontro sugli emendamenti. Rabbia degli alluvionati a Genova, uova e monetine contro il comune, Baccini di André e i due musicisti guidano la protesta e dicono colpa della politica. Pistorius condannato a 5 anni per l'uccisione di Riva, della sua ex fidanzata, in cella per omicidio colposo. La giudice dice è stata una sentenza equa. E poi lo schianto all'aeroporto di Mosca, muore l'amministratore delegato della Total, aereo contro uno spazzaneve, shock in Francia, accuse di negligenza. È morta l'attrice Lilli Carati, icona sexy degli anni 70. E poi l'avete sentito, questa Roma decisamente sottotono, se così vogliamo dire, che sta perdendo 4-0 all'Olimpico contro il Bayern. Parliamoci adesso della legge di stabilità. Il commissario della Spending Review, Cottarelli, ha detto le coperture ci sono, l'Unione Europea non la boccerà perché sapete che poi deve passare anche al vaglio dell'Unione Europea, e poi ci sono sempre le regioni piuttosto arrabbiate per i tagli imposti. Però il presidente della regione Piemonte, Chiamparino, ha detto oggi l'incontro che ci sarà giovedì, che è previsto giovedì con il governo, è una buona notizia. Di diverso avviso è Maroni, presidente della regione Lombardia, che ha detto l'incontro con il governo è previsto per giovedì mattina, ma se la legge di stabilità non è pubblicata entro domani in Gazzetta Ufficiale, di cosa andiamo a parlare? Diciamo che si possono condividere o no le opinioni di Maroni, ma tutto sommato forse non ha completamente torto, visto che tante cose sono ancora lì, nel senso che dico che sia carta bianca, però varie cose vanno ancora definite. Il testo intanto è passato, l'avete sentito, alla Presidenza della Repubblica, poi domani riceverà la bollinatura, come si dice, della Ragioneria di Stato. Però almeno le cose principali che ci dovrebbero essere in questa legge di stabilità ce le ricorda Marco Loconte del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, ciao Roberta, buonasera a tutti. Senti, prima ti faccio un po' sorridere, magari proviamo a sentire un secondo di Crozza, che è a Di Martedì sulla 7, vediamo che dice. Battono le mani, quindi... Quella che dà 80 euro alle mamme l'ha detta dalla D'Urso nell'ora di massimo ascolto. Invece quella che fa slittare al 10 del mese le pensioni delle nonne se la tiene per il consorzio Nettuno alle 4 del mattino. Sai quelle trasmissioni assurde che fa? Ecco, così non la vede proprio nessuno. Ma perché noi siamo indietro? Noi siamo, posso dirti, ha ragione lui, io sono un anziano, ha ragione lui, perché la sua agenda di governo è un palinsesto televisivo, per conoscerla devi leggere TV Sorrisi e Canzoni. Ecco, allora, però, Marco Loconte, così... siamo proprio su questa questione di questo slittamento del pagamento delle pensioni. Tra poco ci aiuterai a capire il perché, al di là che sia condivisibile o meno, ma intanto ci ricordi due o tre cose principali di questa legge di stabilità? Beh, insomma, quelle da cui siamo partiti, quelle che sono state annunciate per prima, riguardavano in particolare gli sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato, per esempio, o la riduzione dell'IRAP, l'odiosa tassa sul lavoro che grava sulle buste paga dei lavoratori italiani e alleggerita la quale, insomma, dovrebbe diventare un po' più conveniente rimanere al lavoro o auspicabilmente essere assunti, insomma, comunque con un vantaggio sia per il dipendente che per l'azienda, evidentemente, e quindi riposizionare inevitabilmente il carico fiscale su altre forme di tassazione. L'altro elemento su cui si è discusso molto è il maggior carico fiscale che va a gravare su il risparmio previdenziale, ossia sui fondi pensione in particolare, che vedranno aumentata l'aliquota sui rendimenti maturati in un anno dall'11,5% al 20%, c'è anche qualcosina che si prenderà dalle polizze vita, ma il grosso, circa 450 milioni, si prenderà sostanzialmente da lì. È una cosa anche abbastanza un po' che ha irritato molti, perché come scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, la norma sarebbe retroattiva, partirebbe non dal 1 gennaio del 2015 ma dal 1 gennaio 2014, quindi considerando i rendimenti in corso, con una battuta oggi si diceva evidentemente a Palazzo Chigi, considerano o ipotizzano o forse sono sicuri sul fatto che l'anno prossimo i mercati scenderanno e quindi applicheranno la tassa già sui rendimenti di quest'anno. Marco, e al di là di queste cose, visto che sto leggendo ancora la pagina Facebook di Effetto Note, dice Luca, è opportuno l'uso del condizionale su questo possibile rinvio al 10 del mese del pagamento delle pensioni, cioè è opportuno l'uso del condizionale? In effetti penso sia semplicemente una furbata da burocrati per rimediare qualche euro a spesa della gente. Allora, che cos'è questa storia del rinvio del pagamento delle pensioni? Beh, allora è corretto parlare di condizionale per diverse ragioni, non solo per la bollinatura che arriverà domani dalla Ragioneria Generale dello Stato, non solo perché sarà passata al vaglio al Quirinale, consiglieri economici del Presidente della Repubblica, non solo perché l'Unione Europea guarderà dentro questi numeri, si farà un'opinione, anche se Katainen oggi ha detto che sostanzialmente, insomma, il dialogo è aperto, dalle anticipazioni gli sembra che tutto quadri, ma perché si sta parlando di un disegno di legge di stabilità, non di un decreto o di una legge, ossia di un provvedimento che poi arriverà in Parlamento e nel giro di qualche settimana dovrà essere emendato, modificato, cambiato. È chiaro che l'impianto e i saldi, i numeri sostanzialmente devono tornare, ma tante cose possono cambiare e lì si giocherà la vera partita. Tornando al 10, al pagamento delle pensioni al 10, allora vi possiamo dire che quello che si stima si possa risparmiare da questo slittamento dall'1 al 10 del mese è circa 6 milioni l'anno, non è tantissimo, ma questo slittamento è motivato dalla necessità degli istituti di previdenza di unificare i pagamenti, stiamo parlando di qualche milione di prestazione pensionistica che viene erogata a 15 milioni di italiani, sostanzialmente sono 25 milioni le prestazioni complessive, con un carico di distribuzione di denaro che parte per le tesorerie straordinario, riuscendo ad accorpare in giorni un po' più sintetici, un po' più coinvogliati, allora si potrebbe risparmiare qualcosa. La prima cifra che ho letto è 6 milioni, ma sono stime anche più ambiziose. Beh, insomma, è chiaro che si potrebbe creare un problema per tutti coloro i quali hanno, diciamo così, il conto corrente che è molto vicino allo zero, alla parità, e che quindi aspettano ansiosamente, con ansia, che arrivi il primo del mese per poter poi spendere magari non per fare acquisti straordinari, ma per vivere. Grazie Marco Loconte. Così per il momento ci è chiaro qual è la questione logistica che porterebbe a risparmiare, però poi bisogna vedere, appunto, usiamo il condizionale. Aggiungiamo per capire. Magari sì. Una piccola cosa che è stata diffusa in serata: l'INPS ha fatto sapere di essere disposta, di essere pronta a introdurre in maniera graduale questo rinvio, che non è chiaro, appunto, bisogna capire che cosa c'è scritto nel disegno di stabilità, se parte dal 1 gennaio, se parte a scaglioni, se parte dal 30 giugno, insomma, è tutto un po' da valutare. È tutto ancora un po', tante cose un po' un mistero. Intanto, grazie Marco Loconte. Grazie a voi. Ciao Marco. Ciao. E continuano a succedere cose incredibili all'Olimpico. Non so cosa siano mangiati i giocatori della Roma questa sera, o il portiere, non so. Dario Ricci, di chi è colpa? Ciao Dario. Direi che è una Roma che finora è stordita da un super Bayern Monaco, finora la grande assente sul prato dell'Olimpico. Pensate, siamo al 43esimo di gioco, 5-0 per il Bayern Monaco, grazie alle reti all'ottavo di Robben, al 23esimo di Götze, al 25esimo colpo di testa di Lewandowski, al 30esimo ancora Arjen Robben di sinistro, con la colpevole partecipazione del portiere Morgan De Sanctis, al 36esimo il calcio di rigore di Thomas Müller, netto il rigore per un fallo di mano di Manolas. Direi una Roma completamente assente dal campo, cara Roberta. Non pervenuta, adesso la furia bavarese sembra arrestarsi. Devo dirti che, tra l'altro, sconfitta molto pesante, ma che per paradosso fortunatamente non incide troppo sulla classifica del girone E per i giallorossi, perché a sorpresa oggi il Manchester City ha pareggiato, è stato bloccato sul pareggio a Mosca dal CSKA. Quindi la Roma ha 4 punti, il Manchester sale appena 2 e sfrutta, diciamo, nel peggiore dei modi l'incrocio con la squadra più debole del girone, i russi, che l'hanno appunto bloccato sul 2-2. Quindi tutto sommato, dal punto di vista della classifica, la Roma non accusa troppo il colpo. Certo, questo 5-0 maturato dopo 35 minuti è un colpo psicologico durissimo, invece. Speriamo che si fermi lì, giusto, anche per una questione di dignità. Grazie Dario Ricci, dopo ci aggiorniamo allora, se ci dovessero nuovi gol facci sapere. Intanto ci prendiamo una pausa, poi ci sono tanti altri argomenti da approfondire. Vi ricordo che per i vostri commenti c'è il numero dei messaggi SMS al 349-238-6666, oppure sempre lì a vostra disposizione, naturalmente, Sava Sandir, la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che sulla quale potete scrivere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma scrive questo ascoltatore: come faranno coloro che hanno scadenze nei primi 10 giorni? Abbiamo appena parlato di questo possibile rinvio, una norma all'interno della legge di stabilità che prevederebbe un rinvio del pagamento delle pensioni anziché al primo del mese al 10 del mese. Già ci si chiedeva prima, insomma, con Marco Loconte del Sole 24 Ore, effettivamente ci potrebbe essere qualche difficoltà per qualcuno che ha delle spese anche solo per sopravvivere. Comunque, per il momento è un'ipotesi, staremo a vedere poi quando ci sarà la bollinatura della ragioneria dello Stato, quindi il VAR della ragioneria dello Stato, che dovrebbe avvenire domani. Però adesso vi risintetizzo le notizie della giornata e poi ne affrontiamo un altro tema. Legge di stabilità arriva al Quirinale in attesa, appunto, del varo della ragioneria, ma fa discutere lo slittamento delle pensioni dal primo del mese al 10. Giustizia, tensioni sulla responsabilità civile dei giudici, ammorbidito il disegno di legge, Forza Italia e Lega tentano un blitz in aula, la maggioranza però regge. Ebola, in Spagna è guarita definitivamente l'infermiera di 44 anni, è stata la prima contagiata di Ebola fuori dalle frontiere africane. In Sudafrica la condanna di Pistorius a 5 anni per l'uccisione dell'ex fidanzato Riva. E poi l'alluvione di Genova, con la rabbia, le proteste nelle strade della città, con la manifestazione Ora Basta, uova e monetine oggi contro la sede del comune. E poi arriva la notizia che sono sospesi i tributi sino al 20 dicembre. In Francia, schianto all'aeroporto di Mosca, muore l'amministratore delegato della Total, è morta l'attrice Lilli Carati, e poi, che fu un'icona sexy degli anni 70, aveva 58 anni. E poi questo tilt della Roma in campo all'Olimpico in Champions contro il Bayern, che per ora perde 5-0. The following is what I consider to be a sentence that is fair Questa che sentite è la giudice sudafricana che ha condannato oggi Oscar Pistorius, l'ex campione paralimpico che ha fatto tanto sognare piccoli adulti normodotati e paraplegici eccetera e portatori di handicap. Beh, si è chiuso quindi in Sudafrica questo processo. Oggi la condanna è stata di 5 anni di carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Riva Steenkamp, omicidio colposo, questa l'accusa. La giudice, la sentite, Trokozil Masipa, che ha annunciato la sentenza oggi a Pretoria. E dopo la sentenza Pistorius è stato prelevato dagli agenti, trasferito nel carcere di Gozi Mampuru, lì dove probabilmente sconterà la condanna, anche se intanto l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere, ne sono stati comminati 5. La famiglia di Riva, della giovane modella uccisa da Pistorius, è detta soddisfatta. Probabilmente in Italia non sarebbe stato così per 5 anni di carcere, una volta che lei non c'è più, però hanno detto nessuno ce la può ridare. E anche l'accusa, gli avvocati della famiglia hanno deciso di non fare appello. Insomma, questo è stato il finale per il momento, così, di questa storia, di questa brutta storia. Ne vorrei parlare però con Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha conosciuto molto da vicino Oscar Pistorius. Claudio. Buonasera, benvenuto, ciao Claudio. Sempre un piacere essere Radio 24. È reciproco il piacere. In particolare. Sì, sì, ho conosciuto Oscar da quando era proprio piccolo, nel senso che lui è la prima gara internazionale della sua vita, la fece, caso strano, perché uno inizia magari con prima i campionati continentali, poi i mondiali, cioè, no, lui l'ha fatta proprio la Paralimpiade ad Atene 2004, aveva 17 anni, quindi era proprio giovane. E aveva iniziato da 3 mesi, pensa, a portare quelle protesi un po' particolari per correre, eppure era già un fenomeno, era già il migliore di tutti, quindi era giovane, era sempre molto sorridente, una cosa che ha portato avanti fino a quel tragico 14 febbraio di 2 anni fa. Del 2012. 13, quindi un anno e mezzo fa, un anno fa. Diciamo che Pistorius è stato davvero, ha rappresentato una specie di supereroe, no? E ha ridato anche speranza a molti in situazioni simili alla sua, ma anche alle persone, diciamo così, normodotate, perché ha fatto pensare, se una persona così non si scoraggia e riesce ad arrivare a questi livelli, chi è normodotato non si può lamentare di quello che ha, di quello che non ha, può fare molto di più. Insomma, aveva riempito il cuore di molti, gli occhi e il cuore. Quante gare ha vinto poi, tra l'altro? C'erano state le polemiche delle sue gambe di titanio, di cos'erano, no? Le protesi. Sì, le protesi in fibra di carbonio. Sì, guarda, hai detto delle cose molto giuste, anche come termini. Il termine normodotato è corretto. È più giusto il termine persone con disabilità rispetto a portatori di handicap e tutto il resto. Però, detto questo, hai detto una cosa molto giusta: era una specie di supereroe. Forse noi in questo caso, anche noi della comunicazione, un po' sbagliamo, però perché non esistono i superumani, come dicevano una volta quando c'erano le Paralimpiadi di Londra, li chiamavano i superhumans. Esistono le persone che sono particolarmente dotate, e questa la cosa, il paradosso della Paralimpiade, il paradosso di Pistorius, era che una persona che è considerata disabile nella società, poi nello sport invece, magari come Oscar, era considerato più bravo degli atleti normodotati. Supereroe, hai detto. Pensa, mi viene in mente un ragazzino che a Halloween a New York decide di travestirsi, però lui ha un problema, non ha le gambe come Oscar. Allora dice: da cosa mi travesto? Tutti si travestono da qualcosa, da supereroe particolare, io da cosa mi travesto? Bene, lui esce, va a scuola travestito da Oscar Pistorius. Quindi capisci, ecco, questo è il messaggio enorme che ha portato Oscar, e credo, lo dico magari in questo non è il giorno migliore, e credo che siamo un po' tutti figli di Pistorius sulle Paralimpiadi, e l'ho scritto anche sul blog del Corriere della Sera Invisibili di oggi. Non è forse bello da dire oggi, dove lui sconta 5 anni per un omicidio che lui dice colposo, e la giudice la pensa nella stessa maniera. Gli ha creduto, evidentemente, se gli ha dato 5 anni. Esatto, gli ha creduto, perché sennò gli avrebbe avuto la condanna a vita. Siamo tutti dei figli di Oscar, perché alla fine il grande successo dello sport paralimpico nasce da quel settembre 2004 che abbiamo citato poco fa ad Atene, dove lui arriva, vince, e poi nei 10 anni successivi dice, prima dice voglio fare l'Olimpiade, la fa, all'Olimpiade era l'atleta più acclamato dopo Usain Bolt, poi fa anche la Paralimpiade perché dice non voglio lasciare la Paralimpiade. Non so cosa è successo in quel giorno, io dico dobbiamo ricordarci quel Pistorius lì e il mondo paralimpico deve essere orgoglioso di quel Pistorius lì, poi bisogna vergognarsi del resto perché giustamente ha sbagliato e giustamente sta pagando. Però appunto quello che ti volevo chiedere, Claudio Arrigoni, è com'è possibile che una persona così, così speciale, così diversa, se vogliamo dire, che è stato il faro per molti, è diventato invece un uomo come tanti, ce ne sono tantissimi uomini che uccidono la fidanzata, l'ex fidanzata, la moglie, anche in Italia molti, no? Com'è diventato da un uomo speciale a un uomo qualunque? Ma guarda, io credo che gli uomini speciali un po' ce li costruiamo noi. Oscar era un uomo qualunque, nel senso però positivo del termine, tu hai usato chiaramente il senso negativo. Io dico nel senso positivo del termine, era una persona molto aperta, molto sorridente, lo dico per esperienza personale, perché poi lui ha giocato con Chiara e Paola, che sono le mie bimbe, ci vedevamo spesso quando era in Italia, devo essere sincero. Lui si allenava molto qua in Italia, ecco, non trovi una persona che ti dica Oscar Pistorius era una persona violenta qui. Poi non so cosa scattava in Sudafrica, devo essere sincero anche in questo, so che alcune volte quando era là, un giorno torna ubriaco da una festa e prende la barca, lì ci sono molti fiumi e va contro un molo e quasi muore. Però una cosa così si può anche comprendere, no? Però certo. Invece il fatto che alla fine le sue frustrazioni o le sue paure eccetera le abbia così scaricate, come succede così spesso, diciamo, anche in Italia, no? Stavo dicendo, sì. Sulla sua compagna, sembra che fosse stata una crisi di gelosia, no? Aveva paura che lei lasciasse. Aspetta, tu stai già andando a una decisione diversa da quella che ha preso il giudice Zippa, perché lei ha detto, ha sostanzialmente avvalorato quella che era la tesi di Pistorius, di Oscar, che ha detto io ero pensavo fosse un ladro. Sì, questo guarda, è vero, la giudice ha deciso così, anche se i vicini, i testimoni hanno detto che spessissimo c'erano delle urla violente. È vero, questo, però poi il giudice ha detto forse si è troppo lontani per capire bene. Pensa che il giudice Mazzippa però, sì, è una giudice nera, sì, è una giudice che solitamente si occupa di casi di violenza sulle donne. Non è considerata morbida. Morbida, facile. E io credo che questa sia stata un'ottima decisione del Tribunale di Pretoria, perché pensa se questa decisione, 5 anni, omicidio colposo, e poi se lui ha buona condotta, esce fra 10 mesi, un anno o poco di più, pensa se fosse stata presa da un giudice bianco, uomo. Certo, avrebbe avuto un altro significato, non sarebbe cosa. Stata letta in un altro modo. Esatto, tutta un'altra cosa. Detto questo, ti ripeto, io non sto assolutamente giustificando un gesto che non è giustificabile, però noi dobbiamo entrare in una mentalità sudafricana dove ancora, e chi è stato in Sudafrica, io non ci sono stato, ma molti miei colleghi, i nostri colleghi ci sono stati per tanti motivi, ancora il tema della sicurezza è un tema davvero molto molto sentito. Detto questo, ripeto, non giustifico un atto del genere, dico solo che cerchiamo di scindere quel Pistorius che ha potenzialmente ridato tante possibilità a persone che si sentivano così svantaggiate nella vita dove entrare nel tessuto sociale, da un Oscar Pistorius che invece ha fatto la cosa più terribile penso che una persona possa fare. Ti ringrazio, Claudio Arrigoni. Grazie Roberto, a te. Grazie a te. Vedo diversi vostri messaggi, chi ci crede, dice Maxi è il colposo, ma non scherziamo, le dinamiche dell'omicidio sono chiare. Un altro dice è possibile che un carnefice un minuto dopo diventa la vittima e poi salvatore, è stato solo una farsa, questo processo ha commesso un omicidio terribile sparando la sua fidanzata e che con la buona condotta dopo 10 mesi avrà gli arresti domiciliari. Queste insomma sono naturalmente opinioni rispetto a una sentenza che va rispettata. C'è la viabilità, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E brevemente qualche titolo principale: con la manovra che è arrivata al Colle, l'esame sarà attento, scrupoloso, Renzi è stato da Napolitano, dice che domani ci sarà il visto della ragioneria. E poi questa cosa che ha fatto molto polemizzare per ora, il rinvio possibile delle pensioni, il pagamento al 10 del mese, allarme dei sindacati, norma inaccettabile. E poi abbiamo sentito della condanna a Pistorius di 5 anni per omicidio colposo. Europa 24 notte. adesso parliamo di Europa. Una notizia intanto vi do, che il ginecologo congolese Denis Mukwege è il vincitore del premio Sakharov assegnato annualmente dal Parlamento Europeo per la libertà di pensiero. Mukwege ha fondato l'ospedale Panzi, specializzato nel trattamento delle donne vittime di violenze sessuali in Africa. Però adesso parliamo invece con Silvia Bernardi da Bruxelles. Ciao Silvia. Ciao Roberta. Del nuovo esecutivo europeo che si insedierà domani ufficialmente, quindi Barroso ha detto addio oggi, no? Ha dato l'addio davanti all'Europarlamento. Esattamente, allora guarda, qui a Strasburgo è arrivata l'ora della verità per il Presidente Juncker, che è vicino al traguardo dell'insediamento della sua squadra di governo. Mancano una manciata di ore al voto di domani, che se confermerà i 28 commissari darà il via ufficiale al nuovo Parlamento, che entrerà in carica il 1° novembre prossimo. Per tracciare un po' una carta d'identità di questa nuova commissione darei alcuni numeri. Sì. 9 portafogli chiave sono stati destinati alle donne e poi ci sono molti ex ministri ed ex primi ministri. In tutto la squadra è composta da 9 ex primi ministri, 19 ex ministri, 7 commissari uscenti e 8 ex deputati del Parlamento europeo. Sono figure che, possiamo capire, con le istituzioni europee e nazionali hanno quindi molta confidenza. È stata questa una scelta che lo stesso Juncker aveva spiegato dicendo di aver chiesto ai capi di Stato e di governo di proporre dei politici di alto livello, perché i commissari non sono solo dei funzionari ma anche politici che devono agire come tali. Per cui questa può essere proprio definita una commissione Juncker, perché l'ex primo ministro lussemburghese ha veramente scelto chi voleva avere al suo fianco. Quindi non solo Juncker ha scelto personalmente i propri commissari, ma la sua commissione porta il marchio e la sua famiglia politica. Poi, merito alla novità, nelle nomine non ci sono state grosse sorprese, una bocciatura e qualche rimandato come il commissario alla cultura e all'istruzione, che però è rientrato dalla finestra. E non ci sono state nemmeno molte novità, se non quella di aver creato delle vicepresidenze destinate a grandi progetti e non per aree. Questi grandi progetti sono di importanza davvero vitale per l'Europa, come il mercato unico digitale, l'unione economica monetaria, azioni per il clima e la politica estera. Quindi tornando proprio all'attualità qui di Strasburgo, tra ieri e oggi i gruppi socialista, popolare e liberale, che rappresentano la maggioranza al Parlamento europeo, hanno dato giudizi sostanzialmente positivi sulle audizioni dello slovacco Šefčovič e della slovena Vulk, che sono state rese necessarie per il rimpasto della nuova Commissione europea dopo la bocciatura dell'ex premier slovena Bratušek. Quindi per concludere, sì, il giudizio positivo che è stato dato in questi due giorni spiana la strada all'approvazione e al voto di fiducia della plenaria di domani, per la quale c'è, come possiamo tutti immaginare, grande attesa. Quindi domani alle 12 c'è l'insediamento di questo nuovo esecutivo. Esattamente, per cui domani alle 12. Grazie, buona inaugurazione allora della nuova Commissione europea. Grazie a Silvia Bernardi. Grazie a te, ciao Roberta. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso invece una notizia che ha quasi dello sbalorditivo, senza offesa, perché è una di quelle che comunque sorprendono. Secondo la famosissima guida turistica Lonely Planet, pensate che tra le città di tutto il mondo la terza migliore destinazione turistica per il 2015, in tutto il mondo la terza in classifica migliore destinazione turistica per l'anno prossimo è Milano. Senza offesa, non perché Milano non meriti di essere visitata, anzi voi girate, ci sono turisti di ogni nazionalità dappertutto, però insomma rispetto ad altre bellezze, per esempio anche italiane ma mondiali, dire che è la terza, ci chiediamo come mai. Anzi, lo voglio chiedere a Luigi Farrauto, autore della Lonely Planet Italia, che progetta mappe e segnaletiche. Buonasera Farrauto. Ciao Roberta, buonasera, ciao a tutti. Ciao Luigi, ci dici, a noi fa piacere come milanesi, per carità, però insomma, diciamo che ci saremmo aspettati, è tutta merito o colpa dell'Expo 2015? Ma un po' sì, diciamo che Expo è per Milano una grande occasione per un po' rifarsi all'immaginario di tutto il mondo, se vogliamo. È una città che in effetti deve pagare un po' la sua immagine. Da un certo punto di vista in Italia è un po' bistrattata, no? Nel senso, sì, che viene considerata la città della nebbia, della gente un po' di fretta, dello smog, della frenesia, eccetera. All'estero invece è considerata principalmente per le sue eccellenze, che è appunto il design, la moda, il calcio, no? Eccetera, eccetera. cose che in effetti a noi italiani hanno anche un po' stufato, se vogliamo, proprio perché Milano, quello che è un dato di fatto è che ci piaccia o meno, anche io sono milanese, per cui lo dico, Milano è cambiata molto, ha dei quartieri nuovi che comunque hanno creato questo anche nuovo skyline. Ancora una volta può piacere o meno, ma zona dei grattacieli, dice. La zona dei grattacieli, quindi ha ambizioni quasi newyorkesi, o anzi dovrebbe dire ormai sud-est asiatiche, ma è anche una città che di sicuro non ha la grande bellezza di Roma, tantomeno la bellezza quella un po' straripante, no, di Venezia o di Firenze, eccetera, eccetera. Ha tanta piccola bellezza, se proprio vogliamo definirla così, che è molto sparsa nel territorio. A mio avviso è una bellezza di quelle che è abbastanza rara, proprio perché richiede tempo, perché la bellezza di Milano va scoperta, no? Va scoperta curiosando nelle corti, andando a cercare i palazzi Liberty nel centro, no? Andando a cercare i fenicotteri nella Villa Invernizzi, eccetera, eccetera. Quindi io penso proprio che è logico che non sia stata definita la terza migliore città del mondo, ma il 2015 è di sicuro un'occasione, visto che appunto gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su di noi, anche per noi, per rifarci. Io penso che sia anche un'occasione per noi milanesi, no? Di uscire, per uscire di casa, per essere un po' più curiosi riguardo alla nostra stessa città, perché talvolta, sai, c'è sempre anche della appunto piccola bellezza che ci passa davanti e noi non ce ne accorgiamo neanche. E siamo anche sempre molto critici. Grazie per una volta, viva Milano, Luigi Ferrauto. Grazie a voi. Buonasera. Ciao, buona continuazione. Ci sentiamo tra poco.